Ciao a tutti, sono Barbara e questo è Yogurt Acid Care, una visione estensiva e fluida della pratica yoga vista come cura della persona, radicale, totale, applicata in un contesto non idilliaco, che è quello della società urbanizzata e frenetica in cui viviamo. Siamo al quarto episodio di questo Yogurt Acid Care. Ho fatto questa serie di 14 giorni, un percorsino di meditazione, mantra e pensieri sani per la nostra mente, per rilanciare un po' un grido di battaglia, questa seconda ondata di lockdown che in teoria ci tiene a casa, ma non mi sembra in realtà che le persone stiano davvero a casa. Ad ogni modo, non è qua il momento giusto per fare polemica su etica, senso civico, politica, economia. Siamo già abbastanza dei birillini, per cui manteniamo questa consapevolezza su questa mezz'oretta che va in onda ogni mattina alle 10 e poi la carico subito in archivio sia nella pagina di Radio Virus che sul mio Mixcloud, che è mixcloud.com/barbara-mulas. Mi trovate anche su Instagram, dove trovate delle pratichine più legate alle asanas, che è la ginnastica posturale che in occidente tutti chiamiamo yoga, e mi trovate come chiocciola Barbara La Mulas, tutto attaccato. Il soundscape che sentite non è più Lorenzo d'Erasmo, questo è un Alaap Guru Raga Yogeshwari. Oggi parliamo del quarto switch per la felicità e di un mantra che si pronuncia Sat Chit Ananda. I mantra sono considerati cibo per la mente e per l'anima. Hanno una tradizione antichissima, sono presenti in più di una cultura e religione e hanno una connessione diretta con l'anima, sia per il suono e le vibrazioni connesse, sia per il significato che inglobano. Si dice che i mantra vadano recitati più o meno 108 volte per un legame simbolico con i 9 pianeti che, muovendosi attraverso le 12 costellazioni, creano 108 effetti o influenze sulle nostre vite. I mantra si possono recitare a voce alta o mentalmente, hanno un effetto diverso. Recitandoli a voce alta si fanno vibrare le corde vocali e i meridiani che sono presenti sulla nostra lingua, per cui stimolano proprio delle frequenze un po' più alte, delle ondine che influenzano le nostre onde neurali. Ripeterli mentalmente è leggermente più sottile come effetto, ma non necessariamente meno utile. Non è una cosa facile recitare dei mantra, non è una cosa facile in generale respirare, inserire delle vocalizzazioni all'interno del respiro potrebbe creare qualche difficoltà. I mantra si possono sia recitare in forma verbale che cantata, associandogli una piccola melodia. Io non darò melodia ai miei mantra, l'ho spiegato durante il primo episodio. Preferisco, non sono una studiosa così approfondita, preferisco mantenere un po' di rispetto verso la cultura e mi piace di più l'idea di vocalizzare con una melodia in un contesto in cui sono guidata da un guru ed è una stanza con altri praticanti. A quel punto è pazzesca la frequenza che si setta con tante voci sincronizzate su un mantra. Durante le scorse puntate abbiamo visto un po' di cosettine, abbiamo parlato di Om Namah Shivaya come un mantra che ci stimola a trarre conforto dalla morte e distruzione che ci circonda. Abbiamo visto Om Mani Padme Hum, che è simbolo di io do il meglio per nascere in tutta la mia purezza dal fango come il fiore di loto fa. Abbiamo visto Soham che ci invita a connetterci con l'universo, ad espanderci dalla costrizione dell'individuo, dell'ego, per evolvere assieme all'universo, in quanto sia noi che l'universo non siamo una cosa statica, ma in continua trasformazione. Oggi parliamo di Sat Chit Ananda, che è un altro mantra potentissimo, che tradotto in maniera veloce significa la verità, la realtà, è consapevolezza e gioia. Mantra molto semplice, estremamente carico di significato. Andrò leggermente a rallentare il ritmo, dimezzare da 130 bpm andiamo a 70 e iniziamo questo piccolo percorso di spiegazione di Sat Chintananda e meditazione. Sat Chit Ananda, due cenni storici e un paio sul significato filosofico. Di nuovo significa esistenza, consapevolezza, gioia. La menzione di questo mantra più antica risale agli Upanishads, che sono dei testi composti attorno al IV secolo d.C. Si potrei leggere un pezzettino del testo da cui deriva questo Sat Chit Ananda, che viene proprio dagli Upanishad. Lo leggerò in inglese e cercherò poi di tradurlo, e sto traducendo a braccio, non me la sono preparata, quindi dai. The realization of Atman, la realizzazione dell'Atman. Leggerò tutto d'un fiato e poi tradurrò dopo. I am of the nature of consciousness. I am made of consciousness and bliss. I am non-dual, pure in form, absolute knowledge, absolute love. I am changeless, devoid of desire of anger. I am detached. I am one essence, unlimitedness, utter consciousness. I am boundless bliss, existence and transcendent bliss. I am the Atman that reveals in itself. I am the Satchitananda that is eternal, enlightened and pure. Traduco. Io sono della natura della coscienza. Sono fatto di consapevolezza e gioia. Sono non duale, puro in forma, conoscenza assoluta, amore assoluto. Sono privo di cambiamenti, privo di quel desiderio o rabbia, sono distaccato. Sono l'essenza una, senza limiti, pura consapevolezza. Sono gioia senza costrizioni, esistenza e gioia trascendentale. Sono l'Atman che si rivela in se stesso. Sono Sat Chit Ananda che è eterno, illuminato e puro. Sat in sanscrito significa esistenza, realtà, verità. Chit significa consapevolezza attraverso cui fai esperienza di questa Sat, la realtà. Ananda è una parola chiave nella yoga, nelle religioni hindu, e nelle meditazioni. È una parola chiave. Ananda è il fine ultimo di ogni essere umano, dell'universo, e significa pura gioia, bliss, pure happiness. Questo mantra non fa altro che descrivere la natura ultima della realtà. Fare esperienza di Sat Chit Ananda è il goal ultimo dello yoga, uno stato elevatissimo e difficilissimo da raggiungere, ma non per questo non ha valore il tentativo di raggiungerlo. Ricordo che lo yoga è più concentrato sul percorso che sul fine. È un percorso personale infinito. Ananda può essere trovata, secondo Yogananda, c'è un libro bellissimo che potrebbe essere una facile lettura, che si chiama Biografia di uno yogi, di Yogananda. Secondo Yogananda, questo Ananda, bliss, joy, può essere trovato solo attraverso una regolare e profonda pratica di meditazione. Questa tipologia di gioia non è una gioia immediata come quelle di cui facciamo esperienza tutti i giorni, ma è una gioia molto più profonda che sta all'interno di noi e non può essere trovata all'esterno. Quando uno ha questa tipologia di gioia divina all'interno, questa lucina dentro rimane nonostante le difficoltà che ci circondano. È come se fosse un piccolo fuoco che abbiamo tutti in potenza e che con la meditazione, con altre pratiche che ci danno la possibilità di rivolgere il nostro sguardo all'interno, questo piccolo fuoco si alimenta, crescendo e illuminando. La meditazione non è nero, la meditazione è quel momento in cui chiudo gli occhi e anziché vedere nero, vedo luce. La mia testa è luminosa, enlightened and pure. Quindi Sat, Chit, Ananda è un mantra che ci invita a fare esperienza di questo tipo di realtà. Soham ci invitava ad abbandonare il nostro ego, a unirci con l'universale, e Sat Chit Ananda ci spiega che cos'è l'universale. La realtà ultima è fatta di consapevolezza e gioia. Puoi fare esperienza di questa realtà ultima che è fatta di gioia attraverso quella tua consapevolezza. È lo strumento di cui fai esperienza. Chiaramente siamo degli esseri emozionali. In questo momento stiamo viaggiando attraverso tante emozioni. Io personalmente ho dei mood swings pazzeschi, passo da picchi di benessere perché magari sto lasciando andare certe cose, sono riuscita a fare un po' di cura per me stessa, bla bla bla. Poi momenti di down in cui penso, mio Dio, io non riesco a vivere così, devo progettare una settimana alla volta e anche queste sono incerte. Non ho nessuna garanzia che riuscirò ad arrivare a fine anno, tutti siamo sullo stesso barcone schifoso. E quindi siamo esseri emozionali. Non tutti siamo in grado di lasciare che queste emozioni attraversino il nostro essere. Molte persone preferiscono la strategia dello shutting off, del chiudersi e non indagarsi. Sconsiglio, profondamente sconsiglio, consiglio piuttosto di abbracciare tutte le emozioni più merdose che vi passano attraverso il vostro cuore, attraverso la pancia. È molto meglio affrontare un'emozione merdosa adesso che 50 blocchi tra 10 anni e dover curare noi stesse e non prevenire una malattia, perché le emozioni bloccano i chakra, il malfunzionamento dei chakra crea degli scompensi perché i chakra sono collegati comunque a dei punti vitali, delle valvole proprio vitali vicino alle ghiandole e il sistema immunitario è connesso allo sviluppo e al ben funzionamento di questi chakra. Qua parlo in maniera olistica, ma se vogliamo proprio metterla sulla medicina occidentale, attenzione perché la cura del benessere emozionale è fondamentale perché la psicosomatica ha già intravisto che si possono sviluppare delle malattie al sistema immunitario a causa dello stress. Detto ciò, torniamo al fatto che siamo degli esseri emozionali. Scusatemi, perdo ogni tanto. Siamo degli esseri emozionali. Non tutti siamo in grado di navigare attraverso le nostre emozioni, ma sicuramente è un mio unsolicited advice, consiglio non richiesto, impara a navigare nelle tue emozioni, non le dobbiamo chiudere, non dobbiamo annegarci dentro, solo attraverso uno sguardo interiore verso queste emozioni però possiamo vedere noi stesse è capire our real self, il nostro essere più reale, che non è che un riflesso di questa realtà ultima, perché come abbiamo spiegato fino alla scorsa puntata, il mio essere è un riflesso dell'essere universale, per cui c'ho già tutto dentro di me in potenza e che è stato sepolto da una miriade di minchiate. Quindi solo indagando e ascoltandoci dall'interno, con consapevolezza, ci è possibile percepire e capire quest'essenza della realtà ultima, questa gioia. Quindi non chiudiamo il canale emozionale. Le emozioni non vanno giudicate, questa è negativa, questa è positiva. No, le emozioni vanno attraversate e lasciate andare. Il canale emozionale è una delle poche connessioni rimaste dirette con la nostra anima. Quando nasciamo siamo corpo e anima e poi sviluppiamo attraverso delle influenze culturali, l'educazione, eccetera, una mente. L'origine per noi è fatta di corpo e anima. Il corpo è in connessione diretta con l'anima, ma la mente si è messa in mezzo e ha interrotto questa connessione. Le emozioni sfondano questa barriera, sfondano i limiti del pensiero e della comprensione, della iperrazionalità. Non chiudiamo queste emozioni. Ananda, bliss, questa gioia infinita, è emotion-oriented. Funziona nel linguaggio delle emozioni. La realtà ultima è accessibile attraverso questa Ananda. Torniamo al concetto di amore come forza motrice. Allora, Sat, Chit, Ananda è il mantra che andremo a ripeterci oggi, mantenendo saldo nella testa che tutto ciò che mi circonda è abbastanza superfluo e la mia vera gioia sta dentro di me. Quando la trovo è facile allora affrontare anche le cose meno gioiose dell'universo che continua a mandarmi schifezze addosso. Ci prepariamo a una pratica di meditazione. Facciamo qualche stretching. Inspirando, stiriamo sulle braccia, muoviamo verso un lato e verso l'altro del nostro corpo, stretchando il side body, muoviamo la cassa toracica, mobilitando anche le vertebre dorsali. Poi magari facciamo qualche twist, cercando di rivolgerci con le spalle verso il muro in fondo. E se abbiamo la possibilità, perché no, muoviamo anche un po' la zona pelvica e le anche. Troviamo poi una posizione confortevole, pancia in su se siamo sdraiate, sedute in qualsiasi forma va bene, se possiamo non appoggiare la colonna e sostenerci grazie al nostro scheletro would be nicer, ma va bene in ogni caso qualsiasi cosa stiate facendo perché siete qua connesse e vi stimo. Chiudiamo gli occhi, rivolgiamo l'attenzione all'interno. Facciamo un velocissimissimo percorso yoga nidra prima di agganciare il mantra. Ascoltiamo tutti gli appoggi del nostro corpo, abbracciamo queste sensazioni senza giudicarle né cercare un'interazione ed espirando le lasciamo andare. Percorriamo il nostro corpo col respiro velocemente per fare una sensorializzazione velocissima e connetterlo in maniera più profonda. Sentiamo i piedi ed espirando li rilassiamo, sentiamo le gambe, la parte inferiore, poi la superiore. Le percorriamo coi sensi e col respiro lasciamo andare queste sensazioni. Sentiamo poi i genitali, gli organi interni all'addome, sino al diaframma. Li lasciamo andare anch'essi, sento e rilasso il torace, lo sterno, le spalle, i polmoni, lascio andare tutto e rivolgo la mia attenzione alla colonna, alla schiena. Rilasso ogni singola vertebra sino alle cervicali, poi percorro le braccia, sento e distendo parte superiore, parte inferiore delle braccia, arrivo alle mani, distendo completamente le tensioni da palmi, polsi, dita, torso delle mani e rivolgo l'attenzione al collo e al capo. Distendo il collo e la gola, sento i capelli, li lascio andare uno a uno, espirando. Superficie del viso, abbraccio le sensazioni. E rilasso tutta la muscolatura facciale, poi il naso, le narici, le vie aeree, sento la bocca, sento la lingua, le labbra, i denti, dischiudo denti e labbra ed espirando regalo al mio viso un sorriso, così rilasso la muscolatura ancora di più. Poi gli occhi, lascio andare i movimenti oculari, li sento e li distendo. Infine vado sulla fronte. Percepisco un'increspatura tra le due sopracciglia e cerco consapevolmente di lasciare andare queste tensioni. Rilasso le attività neurali accumulate sulla mia fronte. Il mio corpo dovrebbe essere più rilassato di prima, distaccato e connesso allo stesso tempo. Ci prepariamo a ripetere il mantra Sat, Chit, Ananda. Ricordo che il mantra va inserito durante la lunghezza dell'espiro, non va forzato il mantra, non va forzato il respiro. Rilasso il viso mentre lo pronuncio mentalmente o a voce alta. Sat, Chit, Ananda. Sat, Chit, Ananda. Sat, Chit, Ananda. Continuo, ognuno personalmente pronuncia il mantra, sinché una campanella suggerirà di lasciarlo andare. Sat, Chit, Ananda. Lentamente abbandoniamo il mantra, facciamo qualche respiro più profondo per rilassare il corpo e lasciare andare tutte le tensioni accumulate. Osserviamo l'interno di noi stesse, osserviamo il corpo, il respiro, i pensieri e la situazione della mia mente. Assorbo questo stato e cerco di mantenere queste frequenze durante il resto della giornata. Lentamente potete riniziare a muovervi o mantenere una situazione meditativa, as you wish. Oggi introdurrò il quarto switch per la felicità. È carino quello di oggi. È un po' più difficile da capire, secondo me, perché potrebbe sforare in qualcosa di molto poco legato all'anima. Dice di osare verso l'indulgence, che tradotto in italiano è viziarsi, concedersi qualcosa. Live to the fullest. Viviamo al massimo. Che cos'è che potreste concedervi per vivere al massimo in questa situazione in cui ci sono permesse veramente poche cose materiali? Non pensiamo al materiale, non vediamo la lussuria come qualcosa di materiale, ma come un concetto legato all'abbracciare questa abbondanza che naturalmente ci circonda. Quindi concediamoci il goderne appieno. Direi che per oggi possiamo terminare qui. Grazie ancora una volta perché ascoltate i miei soliloqui. È un po' alienante parlare con un computer e immagino lo sappiate. Bevete acqua, stay safe e ci sentiamo domani. Ciao a tutte!